Non è solo affetti stabili con Radio 24, ma proprio un legame di sangue. Buona trasmissione, buona giornata. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. Cara Deborah, come stai? Stavo guardando che sono le 11.07 ed è ora di partire col programma, però lo sto guardando dal mio PC o anche dal telefono e quindi non capisco tutta questa mania per gli orologi, onestamente, ma forse sono io che sono un po' limitata. No, ma guarda che gli orologi, un po' come, non so, le scarpe piuttosto che le borse, piuttosto che i gioielli, attenzione per a quello dire, che stai dicendo, possono essere oggetto di collezione ed è importante. È importante anche per il portafoglio, tanto vero che c'è stato un signore, lo riferiva il Messaggero qualche giorno fa, c'è stato un signore che addirittura ha chiesto un finanziamento di migliaia di euro perché aveva questo bisogno compulsivo di acquistare orologi. Riferisce il Messaggero che è un quarantenne torinese, libero professionista, sposato, però senza figli. In pochi anni pare abbia dilapidato il patrimonio familiare e si è anche indebitato per acquistare orologi. Orologi di tutti i tipi, orologi sportivi, orologi classici, orologi più o meno rifiniti, però tutti quanti molto molto costosi. Quindi un collezionismo che, ohimè, non avrebbe nulla di male se uno certo se lo può permettere, perché altrimenti bisogna un pochino regolarsi. Si tratta in fondo sempre di educazione finanziaria, cioè quella che noi tutti i giovedì cerchiamo di portare avanti con i nostri ospiti di valore mondiale qui a Due di Denari, cara certo. Deborah. Tra l'altro, allora il punto di questo signore, sì, prego, il punto di questo signore, no, tra l'altro lì c'era questa... anche la notizia di Johnny Depp, ma la dico dopo. Didi. È che la sua dipendenza e che il suo collezionismo era diventato una vera e propria dipendenza e quindi diciamo ci sono delle situazioni che come dire assumono un po' dei contorni patologici a volte un po' come capita a qualche signora che effettivamente fa collezione esagerata di scarpe e borse come tu dicevi poco fa. Effettivamente abbiamo tirato fuori questa notizia dal Messaggero di qualche giorno fa, la stessa pagina riportava anche la storia di Johnny Depp, che cosa ha combinato. Questi personaggi dello Star System effettivamente qualche volta fanno delle scelte incaute, non gestiscono proprio in maniera accurata i patrimoni che guadagnano con i diciamo film. Che il signor Depp avrebbe dilapidato 750 milioni di dollari, non so neanche come si scrive, cioè tutti i suoi guadagni o quasi dall'anno 2000 a oggi. Sono andati 3 milioni e mezzo solo per comprarsi un'isola con 6 spiagge a Tahiti, 75 milioni in proprietà immobiliari. Vedi che diversificava, però che diversifica il signor Depp. Ma infatti non capisco come mai si lamenti del fatto che lo abbiano mal consigliato, perché invece ha diversificato parecchio. No, ma lui aveva un po' di tutto, aveva fattorie nel Kentucky, tenute nelle campagne francesi e poi insomma però ecco non avrebbe pagato regolarmente le tasse per 16 anni che lo ecco pone dove, insomma dove in una condizione di difficoltà, e lui dice che è colpa naturalmente dei suoi consulenti. Avrebbe poi speso anche 2 milioni di dollari al mese per acquistare opere d'arte, automobili, oggetti di lusso, di arredamento, eccetera eccetera. Solo per un divano lui era disposto a pagare 7.000 dollari, così pronti via. Quindi insomma il signor Depp mi ha fatto più effetto l'isola, però devo dire, del divano. Evidentemente non sapeva che ci sono le offerte fino a domenica, poi si esauriscono, sai, quel famoso spot che ogni tanto passa, anzi ogni spesso passa in televisione. Va bene, ma tutto esatto. Questo per dire che oggi è giovedì e quindi parleremo di investire informati, parleremo anche di beni rifugio, giusto Deborah? Parleremo di beni rifugio tra poco, perché c'è l'oro che sta letteralmente schizzando insieme all'argento, e quindi cercheremo di capire che dinamica c'è dietro a questa tendenza. Io però volevo segnalarti anche un'altra notizia che mi ha colpito dai giornali questa mattina. Amaro naturalmente non ha nessun tipo di giudizio da formulare sulla fine di questa storia d'amore, quella tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. Mi ha colpito però neanche tanto l'assegno che lui gli ha riconosciuto come liquidazione per la fine di questa storia, 20 milioni di euro, e pare anche che sia stato firmato un accordo di mantenimento da 1 milione l'anno. Mi colpisce il fatto, come anche tu giustamente avevi sottolineato, che questi due signori non sono stati sposati, eppure lei ottiene questo mantenimento, crediamo anche a vita, per appunto essere stata la compagna di Berlusconi per una decina d'anni. Quindi in questo caso un accordo di mantenimento che non ha nessun tipo di, che non ha visto nessun ruolo da parte di nessun tribunale, se non ho letto male dai giornali, e chissà però insomma che tipo di scenario apre anche questa situazione. Non è chiaramente una condizione che fa giurisprudenza, e però insomma, anche non essendo stati sposati, il fatto di essere stati compagni di vita per un lungo periodo consente alla signora Pascale di ottenere anche questo riconoscimento. Quindi anche questa, insomma, come tu sai, è una storia che mi colpisce per gli interessi trasversali che ho su matrimoni su e patrimoni. Questa devi mettere nella prossima edizione del tuo libro Matrimoni e patrimoni. Già. Non so se gli ascoltatori, infatti, e le ascoltatrici l'hanno letto. Io lo consiglio caldamente, anzi religiosamente, leggetelo. Lo trovate su tutti gli store digitali, se non avete tempo di recarvi in libreria, se no anche in libreria. Adesso, matrimoni e patrimoni. Adesso sono impegnata a scrivere un altro libro, come sai, con un altro amico. Ma poi vediamo, appunto, di questo parleremo a tempo debito. Volevo dire, sì, dici bene, non fa giurisprudenza, ma qui crea un precedente. Non vorrei che le mie antiche fidanzate si facessero vive dopo anni e anni e anni chiedendomi chissà che ristoro per avere trascorso così qualche serata con loro. Insomma, è un po' pericolosa questa tendenza qua. Speriamo che appunto rimanga un'eccezione nel panorama. Va bene, passate queste notizie in parte serie, in parte no. Ricordo i numeri: 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta oggi giovedì, Investire Informati, ma anche il giorno del domandone, quindi questo numero servirà poi nell'ultima parte della puntata per il domandone. Invece, se volete usare SMS o WhatsApp, 349 238 6666, al di là del vetro un attento Peter Bescapè e uno scalpitante Marco Lombardo. Poi spiegheremo perché è scalpitante, cara Debora. un po' come me, dai. Scalpita Marco Lombardo. Va bene, allora facciamo così. Peter, se tu sei d'accordo e non è di troppo disturbo, metterei una siglettina del giornale radio del risparmio. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Partirei con un po' di mattone, Mauro, intanto perché ci sono delle novità che arrivano finalmente, mi pare, dal Ministero dello Sviluppo Economico, e che riguardano il famoso super bonus del 110%, un tema a te molto caro che adesso ti faccio descrivere. Parto però dal tema immobiliare, perché ieri è stato diramato il rapporto periodico di Nomisa, che dipinge la situazione del mercato immobiliare italiano residenziale in maniera non proprio rosea, ma direi più che altro grigia. È un quadro caratterizzato, lo racconta Paola Dezza sulle pagine del Sole di questa mattina, da un calo delle compravendite, già certificato anche dall'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il primo trimestre del 2020, meno 15,5%, ma c'è anche una contestuale riduzione dei prezzi degli immobili in Italia, che fino a inizio anno erano invece stati più o meno improntati alla stabilità dopo un 2019 pur abbastanza stabile. Nel 2020, ci racconta questo osservatorio, nelle sue previsioni saranno ben 2 milioni in meno le famiglie che non potranno tradurre in acquisto il proprio fabbisogno abitativo. Fra le famiglie che riescono a risparmiare, anche per via di un risparmio forzato nei mesi del lockdown, che è, come sapete, questa parola che ormai siamo abituati ad utilizzare, che indica il blocco di tutte le attività e di tutti gli spostamenti di cui siamo stati tutti i nostri malcapitati protagonisti nei mesi passati, prevale un atteggiamento improntato appunto alla prudenza. Una quota decisamente rilevante in termini di numerosità, in crescita rispetto al 2018, che non riesce ad esprimere una domanda di proprietà, dice questo rapporto, perché non possiede le risorse economiche per acquistare casa, oppure non può accedere ad un mutuo pur avendo manifestato un bisogno abitativo. D'altronde molti hanno perso il loro lavoro, per molti c'è stato un drastico calo delle entrate, del fatturato, insomma del business aziendale, e quindi questo chiaramente non poteva che ripercuotersi anche sul mercato immobiliare. E invece chi una casa ce l'ha potrebbe usufruire del bonus al 110%. Ieri con il Sole 24 Ore la guida con domande, risposte, riepilogo delle regole generali, e si preparano intanto i provvedimenti attuativi molto importanti. Ad esempio, oggi segnaliamo sul Sole 24 Ore che è in arrivo dal Ministero dello Sviluppo Economico il decreto che fissa i requisiti tecnici per quanto riguarda gli interventi, quindi la trasmittanza, i costi massimi degli interventi che si devono fare per il risparmio energetico e per poter accedere a questa super detrazione che arriva fino al 110%, quindi più di quanto costa l'intervento stesso. Per fare un esempio, i costi massimi degli interventi previsti dal decreto attuativo dovranno essere intrecciati con i massimali di spesa che sono previsti dal decreto legge, dalla norma appunto che ha istituito il 110%. In alcuni casi, attenzione, perché questo potrebbe portare a una sorta di tetto massimo di spesa che quindi riduce le spese agevolabili. Tutti i particolari, non in cronaca come si dovrebbe dire, ma invece tutti i particolari sul Sole 24 Ore di oggi, e naturalmente è ancora un provvedimento che deve essere completamente finito e vedere la luce. Però intanto ci si possono fare delle idee, si può cominciare a fare qualche ragionamento se si è interessati e si può accedere al 110%. E adesso, cara Deborah, dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Oh, buongiorno, io volevo solo sapere una cosa: se avere due prodotti finanziari differenti presso lo stesso banca o istituto assicurativo è differenziare e diversificare l'investimento oppure no. Grazie, buon lavoro. A occhio, secondo me, Mauro, non tanto, certamente dipende anche che tipo di soluzione di investimento ha sottoscritto la nostra ascoltatrice, dipende anche quanto patrimonio è distribuito in questa diversificazione così, così piccolina, così semplice, così modesta, definiamola come vogliamo. Peraltro, con il primo ospite di questa mattina, con il quale parleremo di oro, secondo me possiamo anche fargli dire qualcosa su questo argomento, perché sono certa che una risposta ce l'ha. Partiamo? Partiamo, diamo il benvenuto al nostro ospite Salvatore Gazziano, ma prima c'è la sigla. Investire informati. Ci stuzzica il tema del metallo giallo in questo periodo, perché stiamo raccontando da molte settimane come stiano correndo le borse, che praticamente senza alcun timore stanno archiviando tutto quel ribasso così importante che abbiamo visto fra marzo ed aprile. Ieri abbiamo raccontato nei nostri collegamenti di borsa come per esempio la piazza tedesca sia ritornata ai livelli pre-Covid, ci sta ritornando piano piano anche Piazza Affari, è sui livelli di inizio marzo, per non parlare poi di quello che succede a Wall Street, dove il Nasdaq, l'indice della tecnologia, è ai massimi di sempre. Allora, quando corre il mercato azionario è abbastanza difficile pensare che gli investitori si proteggano contestualmente, magari fanno delle operazioni con derivati sulle valute, ma è difficile che si intraveda anche la corsa dei cosiddetti, come dicevi tu Mauro, beni rifugio. Invece in questo periodo stiamo vedendo l'oro che è protagonista di una corsa forsennata. Ti dico quanto vale adesso, perché anche stamattina corre, siamo in questo momento a $1,881 l'oncia. E allora, che succede? Peraltro non è il solo, perché anche l'argento sta correndo, corrono tutte le società che estraggono e che producono, quindi c'è proprio tutta una dinamica che si è messa in moto che vale la pena analizzare. Allora, tu lo hai citato, vuoi salutare tu l'ospite di questa mattina? Ma certamente, diamo il benvenuto, ma anzi il bentornato, a Salvatore Gazziano, responsabile strategie di investimento di Soldi Expert. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, Salvatore. Buongiorno a voi. Allora,

Grazie Giovanni, speriamo di poter ricominciare a distribuire i nostri cadeau, caro Mauro, perché qua questo Covid ha compromesso anche questo felice flusso. Sì, sì, però vorrei rassicurare tutti gli ascoltatori, siccome questa è un po' l'ultima puntata del domandone prima della pausa estiva, tutti coloro che hanno vinto in queste settimane anche di lockdown saranno destinatari, riceveranno il nostro omaggio, quindi abbiate pazienza, adesso riprendiamo un po', cerchiamo tutti di riprendere con le attività normali, e anche questa fa parte in qualche modo delle attività normali. Ringraziamo Giovanni Dapra, co-founder e CEO di Money Farm, società di gestione del risparmio che ha un approccio digitale, e io vorrei ringraziare in questi ultimi 30 secondi, cara Debora, invece Marco Lombardo, perché Marco Lombardo va in vacanza. È stato uno e trino. Esattamente. Esatto. Però in vacanza, per modo di dire, caro Marco, perché naturalmente tu sai, ti abbiamo scritturato per il Serpente Corallo e riceverai un ingaggio principesco pari, credo, almeno a un caffè e una bottiglietta d'acqua. Quindi buone vacanze a Marco Lombardo da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori, Marco. Debora. Anche da parte mia, e noi ci sentiamo invece domani per l'ultima puntata di questa stagione di Due di Denari. Attenzione, attenzione, proveremo serenamente a parlare di vacanze. Buona giornata a tutti.